24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Io rimango, siccome tu ora parlo, la parola, ti do un minuto però. Non ho tempo per te. Non hai tempo. Non abbiamo tempo per voi. Infatti, scusami, in un minuto. No, ma io non sono democratico. Però un minuto, dammelo. Ma non sono democratico, sì, con voi. Sì. Scusa, tu mi dai un minuto. Tu sei qui perché il tuo popolo parla di spettacolo, ti interrompo. Allora. Tu sei come Gaspari, Se non sei un incrocio nemmeno, perché sei un incrocio tra Gaspari e la Biancofiore in questo momento. Allora. Sui 12 round o 10 round, è durato 10 minuti, ma questa è la notizia del giorno, dai, diciamolo francamente. Sì, il dibattito, chi andrà al Ministero dell'Economia, ieri ancora Renzi si è visto con Napolitano, Napolitano vuole un tecnico, Renzi vuole un politico, la possiamo tradurre così, ma questo è stato il tema del giorno, il faccia a faccia tra Renzi, Delrio e credo un altro da una parte, forse c'era Filippo Sensi, dall'altra parte invece Beppe Grillo che gli diceva no, non ti faccio parlare, non mi interessa che tu parli, non mi interessa, non sono qui per ascoltarti, sono qui per dirti che ta ta ta ta ta ta ta. Dai su. Italiani, alle 6:33 minuti, questa è 24 mattino e saluto Miriam Lucchetti in redazione insieme all'alpino Peter Bescapè, ve la ricordate, mitico Rocky, Adriana! E vabbè, il nostro alpino in regia e può aprire ufficialmente il Parlamento? Può aprire. Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Forza. Sbuffo perché sto vedendo le immagini della traversa di Cacà, il palo di Poli. Vabbè, insomma, no, questa è tutta un'altra storia. Ieri, vabbè. Niente, lasciamo stare. Allora, voglio salutare il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Buongiorno Maurizio, eccoci qua. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti gli il ascoltatori. Il più grande amico dei grillini. Ecco. Uno dei tanti anzi. Poi, ecco, caro Maurizio, ti voglio presentare. Oh, sono molto molto felice perché con noi c'è il responsabile della comunicazione del Partito Democratico, Francesco Nicodemo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti quanti. Allora, Nicodemo, come va? Nicodemo, tra l'altro, attenzione, Tortorella è qui in esclusiva 24 mattino con la lista dei ministri. Ci dirà la lista dei ministri, no, è così Nicodemo? Assolutamente no. Porca miseria, io ero subito, pensavo di prenderla. È divertente sto ministri, guarda, secondo me è a livello alla tabellina dei ministri. La tabellina dei ministri, attenzione Maurizio Tortorella, gioca di fino, gioca di fino. Perché qui... Vabbè, adesso vedremo. Guido Tabellini è dato in pole position. No, però voglio iniziare. Ecco, qui io devo fare il grillino, perché lo dico subito. Ho il responsabile della comunicazione del PD. Ho Maurizio Tortorella, notoriamente poco tenero coi grillini, che quindi dovrò difendere Beppe Grillo, lo dico subito. Allora, Nicodemo, come è andato questo incontro? L'abbiamo visto tutti. Pare che Renzi abbia detto dopo: se fossi stato solo segretario del PD, gli sarei saltato sul tavolo in piedi, ma da premier incaricato dovevo mantenere un profilo, no, istituzionale. Ha fatto bene Renzi a subire così le ire di Grillo, caro Nicodemo? Ma secondo me sì, nel senso che era abbastanza scontato che Grillo facesse quello che ha fatto, e tant'è che io poco prima dell'intervento avevo twittato come un cavaliere Jedi, cioè nel senso bisognava stare sereno, essere resiliente alla caterva di parole che lui avrebbe utilizzato, e poi visto che stavamo utilizzando, diciamo, la musica di Rocky, assestare un paio di colpi non da poco, cioè quando ha chiuso l'incontro dicendo esci da questo blog, non male quello, non male. Questa cosa la rete è impazzita, cioè, ieri per la prima volta un hashtag, mettiamola così, democratico, ha surclassato di gran lunga gli hashtag grillini. Secondo me ieri, insomma, il segnale è stato abbastanza chiaro. È stato chiaro. Capito, Maurizio, doveva essere resiliente e sereno come un cavaliere Jedi, cioè sottoporsi a questo profluvio di parole da parte di Grillo, che a un certo punto dice: no, io non sono democratico, non mi interessa. Io fossi Nicodemo, non lo sono per fortuna, prenderei il video e lo metterei in streaming perpetuo su qualunque tipo di possibilità abbia lui di comunicare, perché dal mio sommesso punto di vista, per carità, appunto, riceverò offese gratuite da ogni tipo di versante, però secondo me da quel video, da quello streaming esce chiaramente un'auto accoltellata di Grillo che dice ma in realtà secondo me Grillo è così, cioè che sia così, cioè abbiamo mai visto un'intervista di Beppe Grillo, un'intervista nel senso che si mette lì e risponde alle domande, cioè lui da sempre dice: ma a me non interessa, non voglio dialogare, non voglio... No, è una farneticazione totale, addirittura le solite quattro dichiarazioni sconclusionate, affermazioni apodittiche. Tu sei il vecchio, tu sei un bravo ragazzo, che per lui ovviamente è un'offesa, tu sei un buono, anzi, però rappresenti poteri forti, ti benedetti, eccetera, eccetera. E poi il niente, l'incapacità di trattare con l'interlocutore. Sentiamo per esempio De Benedetti, visto che l'hai citato, De Benedetti, no? Ancora Grillo al terzo round, al terzo round con Renzi. Abbiamo rinunciato allo stipendio, metà stipendio, ho fatto un conto per la piccola e media impresa, non voglio neanche spiegarti il nostro programma perché ce l'hai preso una metà e ti faccio tanti auguri se lo riesci a mettere in atto. Benissimo. Però il fatto che tu non sei più credibile, perché rappresenti De Benedetti, rappresenti gli industriali, rappresenti gente che ha disintegrato questo paese, puoi essere giovane ma non sei giovane. Eccolo lì, Nicodemo, così. Però non riusciva proprio a fermarlo, doveva sottoporsi a questa forca caudina. Ma infatti, come dire, sorprenderò il direttore. Ieri abbiamo preso un pezzo di quello spezzone, l'abbiamo fatto girare tantissimo su Vine e su Instagram, proprio perché dal nostro punto di vista c'è stato un autogol clamoroso. Anzi, se fosse stato possibile trasmettere in streaming a rete unificata l'intero intervento, io credo, diciamo, avremmo fatto un grande servizio. Però al di là delle battute, io faccio un ragionamento molto semplice. Io ho un mio carissimo amico che purtroppo, diciamo, ha votato Grillo l'anno scorso, non sono riuscito a cominciare a votare il Partito Democratico, si chiama Paolo, è falbarista in bar vicino dove lavoro, e dal mio punto di vista è un po' il termometro di un certo tipo di elettorato. L'anno scorso ha deciso di votare Grillo perché voleva il cambiamento, perché non ne voleva più di un sistema politico bloccato e tutte queste cose. E sono sicuro che quel tipo di elettorato ieri è stato largamente deluso da Grillo. Cioè, io penso, no, che 22.000 persone, per esempio, l'altro giorno sul blog sono andate a votare e hanno chiesto un dialogo, un incontro alle consultazioni, cioè abbiamo chiesto appunto un dialogo, non di andare là e sentire un monologo. Sì. Ma in realtà poi oggi il Fatto Quotidiano, che è il giornale, uno dei giornali più attenti a quello che succede sempre in Beppe Grillo, racconta le reazioni, poi le reazioni sulla rete, no? Devo dire che molti, vedo anche i messaggi che mi arrivano in diretta, molti mi scrivono: Grillo ha asfaltato Renzi, punto, per esempio, ci scrive Manuel, capito Maurizio? C'è questo concetto, è andato lì e gli ha mostrato, come se fosse ormai la politica ridotta così. Ma che serve? Voglio dire, ma non lo so che serve, ma voglio dire, ormai non serve un cazzo, posso dirlo, ecco, sei mezzo bambino, ecco. Non serve un cazzo, perché la politica non è asfaltare, niente nella democrazia è asfaltare, questi non capiscono un cazzo. La politica è ottenere risultati. Se tu stai lì e offendi il tuo avversario, non ottieni un cazzo, dovete metterlo in testa. Adesso si stanno svegliando i bambini, sono 6:41, alle 6:41. Ma la democrazia è un'altra cosa, ragazzi. Non, andate a scuola, comunque. Trovate un insegnante, fatevi spiegare dall'educazione civica. Eccola. Non se ne può più. Io ho 54 anni, ho fatto politica da quando ne avevo 14 al liceo classico, ho studiato. ho provato a immedesimarmi nel mio avversario, anche il più lontano da me, non ce la faccio più con questi, mi spiace. Non ce la fa più, basta. Non li capisco. Vado in pensione, rottamatemi. Nicodemo, suggeriamo a Renzi il rottamatore principe, che c'è Maurizio Tortorella che vuole essere anche rottamato lui, potremmo suggerire questo. Allora, esci da questo blog. Non sono elettore del Partito Democratico, tra l'altro. No, vabbè, insomma, esci da questo blog, è stato effettivamente a un certo punto Renzi, no, quando si è un attimo assestato dalla fiume di parole che Grillo gli diceva, poi gli ha detto ti do un minuto, e quando Renzi dopo 6 secondi che parlava l'ha reinterrotto, Renzi, esci da questo blog. Beppe mi ha dato un minuto. La gente come cosa c'è, cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la tavola, allora devi votare Beppe, tutto insieme i pacchetti. Caro Beppe, 7 miliardi e mezzo alle banche, l'avete esci da questo partito. Blog, Beppe, no, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila dolore, su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, buona giornata, è stato un piacere vederti. Grazie, è finita così. Nicodemo, è finita così, ci ha provato, ma è finita. Io su questa storia, per esempio, è abbastanza evidente che, come dire, se non interpretiamo come un derby ieri, e io devo dire la verità, sono un po' sono un po' annoiato da questa visione, nel senso che era una cosa seria, cioè le consultazioni per formare un governo in un paese dopo una crisi, dopo una situazione complessa, secondo me non è bene affrontare queste cose come un derby. Però è chiaro che se si affronta come un derby, tu hai le due tifoserie che tutte e due diranno uno ha asfaltato l'altro, però questo non credo sia molto interessante per il dibattito, mentre invece è più interessante vedere, come dire, un pezzo di elettorato del Movimento 5 Stelle che secondo me è molto deluso da come sono andate ieri le cose. Immagino parlamentari, mi sembra che tra l'altro io credo che ieri Grillo non abbia solo umiliato i 9 milioni di voti che hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle e cui bisogna dare massimo rispetto, ma anche poi tantissimi parlamentari che al Senato e alla Camera sono brave persone che in realtà stanno là, vogliono provare a cambiare il paese. Io non credo che il monologo di ieri favorisca, come dire, il miglioramento delle cose. Questi sono due modi, pacatamente e serenamente. Ma sono due modi, mi pare di capire, ormai antitetici di vedere la politica. Appunto, la politica, Renzi, il dialogo, eccetera, e Beppe Grillo, che in realtà, secondo me, ecco, così faccio la mia difesa di Beppe Grillo, caro Maurizio, non mi ha stupito più di tanto. Cioè, secondo me è esattamente, si è visto in maniera plastica e davanti a tutti quello che da anni è, cioè l'antipolitica. O lui dice la politica vera, quella delle cose da fare e non quella di essere qui a palazzo a fare i soliti discorsi di intrallazzi, cioè è quello lì Beppe Grillo, piaccia o no, ma è quello lì, non è che non è... Cioè non è che ha stupito, cioè cosa ci saremmo dovuti aspettare? Un Beppe Grillo che andava lì, ascoltava, allora Beppe Grillo è quello che è capace di fare, basta, lo show, il monologo, tutto il resto non è concepito. Tutto però la democrazia è un'altra cosa, del resto lui stesso dice io non sono democratico, chiaramente io però non apprezzo. Sì. Nell'uscita, nell'incapacità. Vabbè, lì c'è da dire che poi chiaramente lui ci gioca, perché poi anche quando i giornalisti gli chiedevano ma chi decide il Movimento 5 Stelle, lui dice sì, io, il dittatore, io, scriva, io, decido tutto io. È la verità, evidentemente. Dice che è la verità, ma lui lo diceva ovviamente per sottolineare in maniera ironica, ecco, queste accuse. In ogni caso, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Francesco Nicodemo, che è il responsabile comunicazione del PD, e con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Ce n'è anche per Berlusconi, perché pare, voglio chiedere a Nicodemo questo prima che ci dia la lista dei ministri, un attimo che ce la dà tra 5 minuti, pare che Renzi abbia detto su Berlusconi è veramente il cazzaro numero uno, questo dopo l'incontro 24 mattino. E come disse la filosofa Chiappa Soda di Acqua Pendente, amore, state in campana, è arrivato Renzi, questo vetromba lentamente. Il presidente incaricato Renzi vuole promuovere la meritocrazia e l'uguaglianza. Strano che non si renda conto che sono una il contrario dell'altra. È come dire che ci darà la botte piena e la moglie ubriaca. che il cielo ce la mandi buona. Povera Italia, italianucci che siete altro, che vengano gli austriaci a governarci. Siamo un popolo che vale molto poco. Ciao Milan, volevo dirti che il figlio segreto di Speroni, cioè Salvini, continua a rompere il cazzo per quello che riguarda l'euro fuori euro. Deve essere lui il primo a rinunciare ai 10.000 euro da europarlamentare, hai capito? Ciao Milan. Caro Milan, vedo Alfano, Angelino qua e tutta la combriccola eccetera, ma Gesù Cristo in confronto era un poveretto, camminava solo sulle acque, pensa te. Ciao Milan, divertiti in questa politica di merda. Una domanda politica, ma migliore di Sel, che dieta sta facendo? Oh Milan, ma ci avete fatto caso che la moglie di Renzi assomiglia a Vladimir Lussuria? Ma mi pare strano. Ciao. 1, 2, 3. Ciao Ale, Bibo, ciupa ciupa, ciao. E lo sapevo che Bibo avrebbe riscosso. Sai cos'è Bibo, caro Maurizio? Ieri il giornale ha fatto un articolo imprescindibile dicendo se la vostra partner non vi chiama con i vezzeggiativi finisce la storia. E tra i vezzeggiativi migliori c'era, vabbè, ovviamente Pucci Pucci, Cipu Cipu, Patatina, Bibo, Bibo, Bibo. Ecco. Se la tua compagna ti chiama Bibo, tu cosa fai, caro Maurizio Tortorella? Mi volto per cercare Bibo. Esatto. Allora, vabbè, Francesco Nicodemo, questa è la nostra segreteria telefonica, è un pupurrì di voce, emozioni, sensazioni, così, è un po' senza rete, no? È il suo bello. È un po' il suo bello, sì, anche il suo rischio a volte. Allora, Nicodemo, questa frase sull'incontro con Berlusconi, 8 minuti, vabbè, chiaramente l'ha smentita, non è vero, non ha detto Renzi così di Berlusconi, ma... è in forma al numero uno il vero cazzaro principe, ecco, no, non l'ha detto. Ah, non lo so, diciamo, non lo so, diciamo, potrebbe averla detta, potrebbe non averla detta, non lo so, insomma, non è, come dire, la battuta ci sta, la battuta ci sta. Vabbè, allora questa storia dei ministri lo vogliamo, che perché se noi la traduciamo così come la traducono i giornali, cioè Renzi vorrebbe un politico come profilo all'economia e quindi Guido Tabellini, che vabbè, insomma, è ex direttore della Bocconi, mentre invece Napolitano vorrebbe più strettamente un tecnico, quindi magari Visco di Banca Italia, no, andare a pescare lì. Se la traduciamo così, Nicodemo, la situazione la traduciamo bene? La traduciamo che per fortuna mancano ormai 2 giorni a sabato, quindi diciamo, ecco, il fantacalcio finisce e abbiamo finalmente la lista è mista. Io sono convinto che Matteo Renzi abbia da giorni in testa e anche scritto tutta la lista dei ministri. Io credo ci saranno comunque delle sorprese interessanti, ma non sono moltissimo appassionato al tuo ministro. Devo dire la verità. Insomma, cioè. Ma diciamo la verità, allora Nicodemo, non ci da, due cose sono vere, non ci darà la lista dei ministri adesso alle 6.50 in anticipo, in esclusiva 24 mattino, possiamo confermarlo, non ce la darai? Sì. Non ce l'ha. Anche se l'avessi. Ecco, esatto. Però almeno facci qualche nome, in realtà li sai? Allora, una cosa la posso dire, io sicuramente non vado a fare il ministro. Vabbè, ho capito, adesso va. Una non cosa, allora, cioè, tipo, esatto. Non faccio il ministro. Ma qualcuno li sai almeno? Almeno li sai nella tua testa? Io no, non ne so nessuno. No, non ne so. Aspetto come tutti, diciamo, come tutti. Maurizio, niente, non strappiamo nulla, niente, neanche Gratteri alla giustizia strappiamo, niente, ma, niente. Gratteri è un buon magistrato, ma francamente io posso dire la mia sul punto. Se un magistrato va a fare il ministro della giustizia dopo che abbiamo il magistrato presidente del Senato, qualcuno dovrà consegnare a qualcun altro il premio Montesquieu, perché obiettivamente la separazione dei poteri va veramente a farsi benedire. Vabbè, ma se va a fare il ministro si comporterà da ministro nel caso, no? Beh, già al ministero della giustizia ci sono circa 200 magistrati fuori ruolo, con compiti di organizzazione Dici, non ci vuole un magistrato alla giustizia. Vabbè, ma comunque, effettivamente, anche questa cosa, 48 ore scopriremo adesso. Vedremo. Allora, io vi voglio dire questa notizia che trovate su tutti i giornali. Li avete visti i disperati a Sanremo, i quasi quelli che minacciavano il suicidio, eccetera. Allora, oggi su tutti i giornali c'è la storia, per qualcuno dice la vera storia. Erano già sotto accusa per assenteismo, reati contro il patrimonio, interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata. Sono già stati sottoposti al DASPO, cioè quel provvedimento per non andare a vedere le partite di calcio o le manifestazioni sportive. Che bella compagnia, caro Maurizio Tortorella. Come mi viene in mente di paragonarvi a un signore che va agli appuntamenti e poi fa casino, insomma. Ecco, sì, esatto. Nicodemo, l'hai visto Sanremo? Ti hanno insospettito queste scene? Ma se non mi sbaglio erano forse anche i miei conterranei, erano napoletani, campani. Io dico di verità, sono colpevole, cioè sono giorni che non guardo Sanremo. Ma no, ma neanche io l'ho visto in diretta, però insomma poi giravano. Ho visto la scena, vabbè, come dire, non è la prima volta, mi pare, in linea con la tradizione nazionale popolare di Sanremo, la sorpresina, c'è sempre qualcuno che c'è. Beh, d'altronde ci sono milioni di telespettatori inchiodate alla televisione in quei momenti, quindi in qualche maniera chi vuole porre un problema, un po' di attenzione c'è. Però intanto, visto che qua il clima è idilliaco, la prima pagina di Panorama, la copertina di Panorama, caro Maurizio, è questo, eccolo qua, il caro Renzi che fa "voglio tutto", questo è il titolo, "voglio tutto". Perché, Maurizio, lo dipingete così, come uno ambizioso? Obiettivamente mostra intenzioni bellicose il nostro, a partire dalle nomine negli enti, nelle aziende pubbliche e anche nel modo sicuramente non apprezzatissimo con il quale ha dato il ben servito al suo predecessore, Aletta, che però ha ricevuto ieri la telefonata del Papa Francesco, consolatoria, sì. Papa Francesco ha chiamato Nicodemo, ha mai chiamato Renzi Papa Francesco? No, questo no, non fi- no. Fino a questo momento no. Non ancora, direi. Però effettivamente c'è questa cosa dell'ambizione, cioè, ma insomma, ma Renzi, molti italiani sono rimasti sorpresi da questa accelerata, cioè lo dipingono adesso come uno che insomma ha visto il modo per accaparrarsi la poltrona, no? E comandare proprio. Voglio tutto, titola Panorama, caro Francesco. E spero che sia una citazione della canzone dei Queen, "I want it all, I want it now". Insomma, la voglio adesso. Parto, diciamo, dalla "voglio adesso", cioè, nel senso, io credo che invece la situazione era abbastanza bloccata, il governo era decisamente immobile, quindi c'era un'urgenza secondo me di ripartire e in fretta, ed è evidente che date le condizioni l'unica cosa possibile da fare, visto che non si potevano sciogliere i cari e andare alle elezioni, l'unica cosa che si poteva fare è indubbiamente che il segretario del partito, eletto in maniera quasi plebiscitaria, segretario, diventasse presidente del Consiglio. Io non credo che sia una questione personale di ambizione. Cioè, l'ambizione smisurata, come ha detto lo stesso Matteo Renzi, è la necessità di fare le cose, di fare subito, visto il quadro che era decisamente bloccato. Questo, come dire, dato lo sconcerto iniziale anche di moltissimi nostri militanti, negarlo sarebbe stupido. Io vedo una grande consapevolezza tra la nostra gente e anche nel paese che era l'unica cosa che era possibile. Comunque staremo a vedere, 48 ore ci siamo, anche con qualche sorpresa che ci ha annunciato Francesco Nicodemo. Io vi ringrazio per il momento, Nicodemo, grazie, responsabile di comunicazione del PD, e Maurizio Tortorella, vice DIR di Panorama. Chiudo con Berlusconi, finite le consultazioni, ha detto una cosa nuova, un concetto che non ha mai espresso. Non si può lasciare al Capo dello Stato la prerogativa di nominare 5 membri. Oggi noi abbiamo una Corte Costituzionale che, da istituzione di garanzia sopra le parti, si è trasformata in un organo politico della sinistra. Volete dire la vostra? 02 4652 4492.

ho detto, ho espresso la mia opinione così. C'è in questo contesto colei che per me ha fatto qualcosa di quasi eroico in questa Italia, forse un po' esagerato, ma è una dirigente scolastica che a Pozzuoli, in provincia di Napoli, di fronte a queste proteste di ex lavoratori socialmente utili che hanno deciso di occupare le scuole, ha detto non lo permetterò, e quindi di notte, approfittando del buio, di nascosto è entrata nella sua scuola, nella scuola nella quale è dirigente, e si è di fatto barricata, impedendo l'occupazione della scuola. Forse il tutto l'ho raccontato con troppa enfasi, non lo so. In ogni caso la protagonista è con noi, si chiama Angela Palomba, è dirigente scolastica al primo circolo didattico di Pozzuoli. Buongiorno e benvenuta, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io l'ho dipinta così. Tanto lei si è proprio intrufolata nella scuola dove è dirigente di notte, in piena notte. A che ora? Alle 4. Alle 4 di notte. 4. E perché l'ha fatto? Perché la scuola in quel momento era occupata? No, in quel momento non era occupata. Non c'erano esclusivamente utili, sono arrivati dopo. Sono arrivati dopo. Con l'intenzione, immagino, di occupare anche la sua scuola. Sì, sicuramente. I miei pezzi erano occupati, ne ho 4, quindi insomma ho preferito difendere la sede della centrale, della direzione. La sede ne parla quasi come una difesa militare, ma è davvero così, cioè lei è dirigente di 4 plessi scolastici, 3 dei quali sono occupati. Allora ha deciso almeno quello centrale, dice, non lo prenderanno. Per consentire di continuare a lavorare, la segreteria, la direzione, insomma, avevamo degli adempimenti, quindi il nostro desiderio era quello di proseguire la nostra attività lavorativa, confermare la loro ipotesi di non far entrare eventualmente gli alunni, ma noi amministrativi, il dirigente, dovevamo continuare per adempiere bene gli impegni che avevamo. Senta, ma come le è venuto in mente questo blitz? Cioè, perché lei ha deciso qua la situazione, o di notte entro nella scuola, mi barrico, oppure la situazione succede che occupano anche questa scuola? Come le è venuto in mente? Il mio desiderio era quello proprio dell'improvvisazione, di evitare polemiche diurne o situazioni che potevano poi compromettere l'incolumità dei bambini o dei miei stessi assistenti. Quindi ho fatto tutto da sola, il pensiero e la realizzazione. Penso che sia importante cercare di dare dei segnali forti. La scuola pubblica ha necessità ovviamente di avere una certa serenità organizzativa in questo momento politico un po' particolare. Senta, ma lei, le proteste di questi lavoratori, che lo ricordiamo rischiano di perdere il posto di lavoro, ha anche detto in una serie di interviste: io posso capire tutto, posso capire il disagio di chi perde il posto di lavoro, ma la risposta non può essere interrompere un pubblico servizio e creare problematiche nei confronti dei bambini. Esattamente questo. Cioè, anche noi dirigenti venerdì abbiamo scioperato a Roma, abbiamo scelto delle sedi istituzionali perché non condividiamo alcune scelte da parte del governo, però ci sono le sedi opportune. È questo che devono fare loro, devono regolarizzare il contratto, che ancora la Regione Campania non lo è, perché sappiamo benissimo che il bando è andato al ribasso per quanto riguarda la loro situazione organizzativa, e tecnicamente la cosa importante è che c'è un numero di socialmente utili elevato rispetto alle altre regioni. E questo è un po' anche un problema. Ma attualmente la situazione com'è in Campania? Ci sono ancora scuole occupate? No. È stato fatto un monitoraggio da parte dell'ufficio scolastico regionale, insieme a che i dati siano rientrati, e tutto, anche con la prefettura. Io ho avuto uno stretto contatto con la prefettura, insomma. Ed è tutto abbastanza tranquillo in questo momento. Ma lei ce lo racconta proprio questo blitz? Cioè, lei ha deciso, si è svegliata e ha detto: qua bisogna fare qualcosa per difendere la scuola. Diciamo che mi sono sentita un po' Eva Kant in quella nottata. Non c'erano catene, sono entrata con le mie chiavi, io dispongo ovviamente delle chiavi di tutte le scuole, sono entrata e con una catena mi sono chiusa dentro. proprio barricata, cioè incatenata dentro, perché temeva. Ma, insomma. Sì, nella mattinata sono entrati, hanno visto che c'era la catena, però l'ho aperta, ho chiesto loro di evitare di entrare. E ho chiamato le forze dell'ordine. E tra l'altro questi lavoratori, sono, leggevo da qualche giornale, hanno desistito dopo un po' e sono andati a cercare un'altra scuola da occupare. Questo è il dato. Sempre la mia. Ah, sempre la sua, quindi ha difeso, diciamo, la sede centrale, ma non... la roccaforte. Senta, ma adesso, al di là di tutto, descriverla appunto come un'azione militare fa un po' effetto sentire che debba essere trattata così. Ma io penso che noi dirigenti veramente abbiamo tante responsabilità, troppe forse, e le scuole sono una seconda famiglia. Difendiamo i nostri alunni come se fossero i nostri figli, e questo è il grande senso del dovere che abbiamo in una scuola pubblica, insomma, cioè, dirigente, gli assistenti amministrativi, collaboratori, docenti, e quando ci toccano ovviamente un bene pubblico cerchiamo di difenderlo con tutti noi stessi. Questa è stata la mia la motivazione per la quale io mi sono sentita di chiedere a loro di lasciarci tranquilli, di continuare a lavorare, di fare in modo che la scuola possa essere sempre aperta. Cioè protestare sì, ma occupare una scuola no. Lei che ne pensa del fenomeno delle occupazioni in generale? Da parte anche degli alunni, anche. Io mi chiedo, ma è possibile che in Italia solo chi urla ottiene? E non possiamo sederci a dei tavoli e discutere con calma, con tranquillità, come ha fatto Renzi con tutti i colleghi nelle consultazioni? Questo noi chiediamo, anche noi dirigenti vogliamo sederci a un tavolo, che la nostra soluzione contrattuale venga definita. Questo, non vogliamo urlare, non chiediamo, lavoriamo anche 12 ore, 13 ore al giorno, però chiediamo ovviamente calma e serenità, sì, alle persone giuste nei momenti giusti. E dice non... evitiamo di queste forme di violenza, perché l'Italia ha bisogno adesso di calma. E invece ne ha vista troppa di violenza. Va bene, io nel ringraziarla, insomma, speriamo che la situazione si normalizzi anche nel lungo periodo. Teme che possano succedere nuove forme di protesta di questo tipo? Vigilerò. Certo, anche in piena notte. Io la ringrazio per essere stata con noi. Angela Palomba, voglio ricordare, dirigente scolastica al primo circolo didattico di Pozzuoli. Avete sentito, di notte, in piena notte, si è barricata con tanto di catena all'interno della propria scuola per impedire l'occupazione da parte di dipendenti che protestavano per il rischio della perdita del posto di lavoro. Allora, ci vuole calma e serenità, ha detto Angela Palomba, per discutere, non altre forme di... ma sembrava quasi un assist per l'argomento che tratteremo dopo la pubblicità. Allora, dopo la pubblicità ci concentreremo sulla politica. E ieri si è assistito a questo faccia a faccia che sembrava più un incontro di pugilato, con Beppe Grillo a stordire a suon di parole Matteo Renzi, che ha lasciato fare e ha detto poi ai suoi: certo, fossi stato solo il segretario del PD sarei saltato sul tavolo e avrei reagito, diciamo, con la stessa veemenza verbale. Ma da premier incaricato dovevo stare tranquillo e sereno. Renzi stai sereno, insomma, hashtag di ieri, evidentemente, nell'incontro con Beppe Grillo. Ne parliamo tra poco dopo la pubblicità. 24 mattino alle 8:33 minuti. Allora, cari ascoltatori, ribadisco dai giornali che Matteo Renzi avrebbe detto così ai suoi, una volta finito l'incontro con Beppe Grillo: se fossi stato solo il presidente e il segretario del Partito Democratico sarei saltato sul tavolo, no? E avrei risposto in qualche modo con la stessa veemenza verbale, si intende. Ma da presidente incaricato, da premier incaricato, dovevo stare sereno, tranquillo e mantenere la plomb. Ed è andata, in un sunto di questo incontro, così. Io rimango, siccome tu ora tieni la parola, ti do un minuto, però. Non ho tempo per te. Non hai tempo. Non abbiamo tempo, Beppe, per ma voi. Infatti, scusami, Beppe, in un minuto. No, ma io non sono democratico. Però un minuto, dammela. Ma non sono democratico, sì, con voi. Sì, scusa, tu mi dai un minuto. Tu segui perché il tuo popolo. Se mi parli di spettacolo, ti interrompo. Allora. Tu faccio come Gaspari, eh? se no sei un incrocio nemmeno tra, sei un incrocio tra Gaspare e la Biancofiore in questo momento. Quindi, allora. Bene. Beppe mi ha dato un minuto. Voglio informare la gente come cosa c'è, cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la tavola, allora devi votare Beppe, tutto insieme i pacchetti. Caro Beppe, 7 miliardi a mezzo alle banche, l'avete esci da questo partito. Blog Beppe, no, esci no, da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila dolore, su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, caro. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Vabbè, è finita così. E comunque la pensiate, 800 24 00 24, cari ascoltatori, è stato più che un incontro, uno scontro, più che un faccia a faccia, sembrava un incontro di pugilato, ovviamente senza pugni, sui 10 round, uno per minuto, i 10 minuti è durato questo faccia a faccia. Saluto Riccardo Nuti, onorevole del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuto Nuti, eccoci qua. Buongiorno a voi. Saluto anche l'onorevole Ermete Realacci del Partito Democratico, buongiorno Realacci. Allora. Buongiorno, buongiorno. Nuti, ma davvero doveva fare così Grillo, cioè non lasciare neanche replicare Renzi, andare lì a dirgli tu sei vecchio, cioè, tu sei espressione dei poteri forti, eccetera, però neanche ascoltarlo, proprio non l'ha fatto neanche parlare, è questo il metodo giusto? Renzi ha accennato due cose, l'abolizione delle province con il disegno del Rio e l'abolizione del Senato con un finto risparmio di 1 miliardo di euro, praticamente ha detto due bufale, è stato smentito, dico due bufale e 30 anni di altre tante bufale penso che bastino. Però non l'ha fatto, cioè, non molto. È che ci si può far prendere sempre in giro da questa gente, cioè, ma il fatto che Beppe Grillo così è esuberante, no? Non è che si può trattenere, però non l'ha fatto neanche parlare, questo almeno, cioè, l'ha detto anche, a me non interessa ascoltare, non sono qui per ascoltare, non sono democratico, non me ne frega niente, sono qui per dirti queste cose, poi prendo e me ne vado. Questo di fatto è stato l'incontro, cioè non è stato, come dire, confrontiamoci anche solo per 10 minuti su alcune cose. Ma che cosa? Cioè, io vorrei capire, una volta che Renzi dice due cose di un finto programma come l'abolizione delle province, che è una bufala, una truffa, perché aumenta i costi, l'ha detto anche la Corte dei Conti, e l'altra, la finta abolizione del Senato, mi scusi, ma dopo 30 anni che ci raccontano sempre questo tipo di cose, e dopo che Renzi ha accennato due cose ed è stato smentito nel contenuto, non è che una persona o noi possiamo stare lì a far finta ricevere le belle parole di Renzi. Non era il caso, cioè, allora, di non andare... Poi qualcuno in Italia ha qualcosa di serio la doveva dire, visto che spesso i giornalisti mettono il microfono sotto la bocca di Renzi, ma domande pungenti non gliene fanno, o comunque non controbattono. Non era il caso allora di neanche presentarsi a questo punto. Cioè, se a uno mio si parere deve... sì. Era meglio non andare. A mio parere sì, poi se ha scelto la rete di andare, allora siamo andati a dirle chiaramente. Realacci, insomma, ha capito, più che un momento di confronto, anche lo stesso Beppe Grillo ha detto io non mi sarei neanche presentato, ma la rete o quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle ha scelto a maggioranza che io dovessi presentarmi, allora sono andato, ma voglio dire, era partita già malissimo. Secondo lei Realacci ha fatto bene Renzi a stare tranquillo, sereno, a non manifestare nessun tipo di reazione? Sì, ha fatto bene, io apprezzo lo sforzo di Nuti di simulare un confronto sui contenuti, peraltro Renzi non ha fatto neanche a tempo a dire quelle poche cose perché non è stato fatto parlare. È chiaro che Grillo non voleva questo incontro, l'ha usato per fare uno spettacolo, per parlare solo ai suoi. Ora il problema è che se vogliamo uscire dalle situazioni molto difficili in cui si trova l'Italia, ognuno deve parlare ai suoi, ma deve provare a parlare anche agli italiani, trovare una qualche soluzione. Ora è chiaro che non è che avrebbero risolto in un confronto di mezz'ora i problemi del paese, però avrebbero provato almeno a indicare quali erano le priorità. Grillo è andato lì per non far parlare Renzi e per fare un monologo, questo è evidente a tutti, insomma. Peraltro questo pone anche un problema sull'ideologia dello streaming. Cioè, io penso che lo streaming è una cosa molto utile, come la rete, come tante cose, per dare trasparenza, ma qualche volta l'ideologia dello streaming produce l'effetto opposto, nel senso che lì alla fine c'è stata meno confronto e meno trasparenza che se il confronto fosse avvenuto senza dover rappresentarsi, senza dover fare il sospetto un pochino è questo, cioè lei non crede, onorevole Inuti, che nel momento in cui viene accesa una telecamera, perché di fatto poi lo streaming è questo, cioè far vedere a tutti quello che fino a pochi giorni prima, fino all'arrivo del Movimento 5 Stelle, erano le consultazioni a porte chiuse, non crede che aprire un occhio su quello che succede in qualche modo ponga le persone a comportarsi come dei ruoli prestabiliti, cioè neanche molto naturali? Cioè, secondo lei Grillo avrebbe fatto lo stesso show, come lo definisce Realacci, a porte chiuse, senza che questo fosse visto da tutti? No, guardi, chi sostiene questa teoria effettivamente forse allora non conosce Beppe Grillo, o fa finta di non conoscerlo. In realtà questo tipo di consultazioni dovrebbe essere tutte in streaming. Perché dobbiamo poter vedere solamente quella quando va Beppe Grillo e non vedere quella quando Berlusconi e gli altri? Ma non per una questione di spettacolarizzazione, ma perché è giusto che gli italiani conoscano il contenuto di quello che si dicono i vari rappresentanti. Ma perché questo parte, mi scusi onorevole Nuti, parte da un preconcetto forse, per cui due persone che si incontrano a porte chiuse stanno per forza tramando qualcosa alle spalle di italiani. No, ma perché non è detto, assolutamente, non è detto che stanno tramando qualcosa, ma assolutamente, semplicemente visto che non stanno parlando di interessi personali, quindi dei loro fatti, ma stanno parlando di qualcosa che riguarda tutti noi, è corretto che venga fatto pubblicamente la cosa. Non, questo non significa che il fatto che non ci sia diretta streaming ci sia qualche cosa che stanno tramando, però è corretto che si sappia. Le chiedo anche questo, onorevole Inuti, secondo lei la posizione del Movimento 5 Stelle è proprio quella che ieri poi Grillo ha espresso e che avete espresso anche varie volte, cioè i partiti sono finiti, cioè voi volete proprio questo, cioè i partiti, questo vecchio modo di fare politica prima o poi finirà e quindi l'unica alternativa vera è il Movimento 5 Stelle, cioè credete davvero che possa essere così? Perché un pochino non è un qualcosa che fa spavento, cioè l'idea che esiste, che muoia, diciamo, tutta la politica e rimanga il Movimento 5 Stelle. Ma guardi, in alternativa secondo me possiamo anche continuare a far restare questi partiti che fanno finta di farsi opposizione da 30 anni per poi continuarci a lamentare. Cioè gli italiani non è che hanno un obbligo, però basta semplicemente che sono coscienti che se continuiamo così potranno continuare felicemente a lamentarsi per altri 30 anni. Ognuno sceglie quello che vuole. È chiaro che se magari vogliamo smettere di lamentarci e parlare di qualcosa che sia per il bene comune e non due partiti che fanno finta di fare l'opposizione e poi resuscitarsi l'un l'altro in questo senso, allora secondo noi questi partiti devono sparire, perché quello che si chiama bipolarismo in Italia in realtà è stato per 5 anni, dico che la colpa è stata tua che c'eri prima di me. Poi alle prossime elezioni io divento opposizione e tu maggioranza e si cambiano i ruoli e io dico che è colpa tua e così via. E così via, in realtà non cambia nulla. Onorevole Realacci, adesso uscendo da questa vicenda io faccio la domanda contraria. Sui giornali effettivamente qualcuno legge per esempio di questo faccia a faccia che c'è stato anche con Berlusconi, che poi è proseguito con 10 minuti in solitaria tra Renzi e Berlusconi. È chiaro che così fioriscono poi le teorie del chissà che si saranno detti, chissà che patto c'è tra Renzi e Berlusconi. I giornali oggi raccontano il patto è questo, Berlusconi non faccio una grande opposizione, ti appoggio sulle riforme, ma tu mi prometti che tra un anno si vota. Realacci. Ma guardi, i giornali devono riempire le pagine, anche l'informazione è così, è come un eterno processo del lunedì di Biscardi, se uno non ha una notizia spara la bomba di Mosca, ecco, non so come dire. Io penso che invece sia molto più semplice guardare gli atti, i comportamenti. Io penso che dopo l'incontro di ieri noi rispetto al bene comune abbiamo fatto un passo indietro, perché non è che Grillo ha spiegato che idea ha dell'Italia, ha ringhiato, ha insultato. certo, ma, non, ma se io penso per esempio alla necessità di dare risposta a quei 60.000 piccoli imprenditori che hanno manifestato a Roma e che vogliono, diciamo, capire qual è, in quale direzione si muove il paese, quale economia abbiamo in mente di costruire, una cosa in cui la cultura del Movimento 5 Stelle può dare un contributo. Io lavoro in commissione con dei colleghi del Movimento 5 Stelle, spesso su tanti temi siamo d'accordo, dopo l'incontro di ieri saranno ancora più sfiduciati. Non è lì che c'è la risposta, ecco, questo voglio dire. E poi parliamoci chiaro, il Movimento 5 Stelle ha avuto uno straordinario risultato elettorale, prendendo un quarto dei voti degli italiani che sono andati a votare, ci sono gli altri tre quarti, non è che poi Grillo può immaginare di diventare come Pol Pot, diciamo, perché oltretutto non è andata a finire bene, e il Movimento 5 Stelle sa che le sue difficoltà di consenso sono forti, tant'è vero che in due elezioni regionali, la Basilicata e la Sardegna, per paura di avere una sconfitta non si è presentato. Quindi cerchiamo veramente di ragionare degli interessi del paese, non facciamo sempre propaganda come se fossimo in campagna elettorale. Questa è l'accusa che viene spesso fatta al Movimento 5 Stelle, caro Nuti, cioè essere poco propositivi, o almeno poi voi dite ma no, ma venite a vedere il lavoro parlamentare, noi proponiamo leggi, proponiamo disegni di legge in commissione, però poi negli incontri, quelli forse più visibili, quelli che ai quali la stampa dà maggiore risalto, viene fuori un Movimento 5 Stelle più d'assalto che di proposta, o no, Nuti? Guardi, io penso che il programma del Movimento 5 Stelle sia in campagna elettorale, che dopo è abbastanza chiaro, però se il collega Realacci o altri non lo hanno ben chiaro, lo ripetiamo un minimo. Reddito di cittadinanza serio, con dei centri per l'impiego che funzionino realmente e non siano degli uffici praticamente vuoti, un conflitto di interessi con delle sanzioni e che venga accertato prima il conflitto di interessi e non dopo, l'abolizione dell'IRAP per le piccole e medie imprese. Poi però abbiamo già ottenuto lo stop per le cartelle di Equitalia e per chi vanta crediti allo Stato, la norma sulle delocalizzazioni, non so se la ricorda, quella di restituire i fondi se un'azienda delocalizza. Ma perché? Allora perché queste cose Grillo? Concludo la frase almeno. Quelli che sono stati dati dallo Stato a un'azienda, e se questa azienda delocalizza entro 3 anni, questi soldi li deve restituire. Poi c'è la norma sugli affitti d'oro, che però qualche giorno fa il nuovo PD di Renzi ha bocciato al Senato. Ma è questo il punto? Ma certo, secondo me è una contraddizione. Ma il punto è questo: perché Nuti queste cose con questa stessa pacatezza Grillo non le ha dette a Renzi? Guardi, vogliamo fare questo, questo, questo, ma è andato lì e invece ha detto: ah, io non le parlo, io non lo ascolto, io di qui, io di là. La risposta è semplice, perché se io dico a Renzi tu sei per abolire gli affitti d'oro, lui dice sì, però poi il suo partito ieri, l'altro ieri, ha votato per abolire l'emendamento del Movimento 5 Stelle del collega Fraccaro che aboliva gli affitti d'oro. Quindi proprio non c'è una fiducia di base. Dice una cosa ma vota un'altra. Cioè lei dice non c'è proprio la fiducia di base, manca proprio... Non c'è credibilità. Questo è il punto centrale, cioè dal punto di vista prima ancora di sedersi non c'è assolutamente nessun tipo di credito da dare a questo Partito Democratico, e in questo caso a Renzi, come Grillo l'ha espresso in maniera molto chiara, no? Dicendo sei giovane ma sei vecchio dentro, sei esponente dei poteri forti, eccetera. Va bene, ripartiamo da qui tra un attimo dopo il traffico con l'onorevole Riccardo Nuti, Movimento 5 Stelle, e Ermete Realacci del PD. Allora, le 8:48 minuti, detto che tra l'altro mentre noi parliamo in Ucraina, non è escluso che nei prossimi giorni ne parleremo, perché in Ucraina sono ripresi gli scontri di piazza, è proprio una notizia che viene data adesso dalle agenzie, ci saranno tutti gli approfondimenti ovviamente nel corso del giornale radio delle 9. Qui stiamo parlando invece della anche nascita del governo un po' difficile di Matteo Renzi. A questo proposito, onorevole Realacci, al di là del dibattito, vuole dire anche lei la sua sulla questione la casella del Ministero dell'Economia, perché tanto tutti si esercitano su questo tema, che sia un tecnico, che sia un politico, e sulle presunte difficoltà della nascita del governo Renzi. Nasce? È tutto nella sua testa, secondo lei, oppure no? No, dico la mia ovviamente, che è una posizione personale, volevo sottolineare la drammaticità perché ho davanti il televisore acceso e vedo le immagini che arrivano dall'Ucraina, sono terribili e ci fa capire anche che l'Europa deve essere una cosa diversa, sia nell'economia sia nella politica estera, perché quelle persone che stanno rischiando di morire sono gente che combatte per essere vicina all'Europa, quindi insomma sono veramente situazioni drammatiche. Faccio una battuta al collega Nuti, le cose di cui lui ha parlato sono state votate ovviamente dalla maggioranza. Quindi c'erano delle proposte di 5 Stelle che sono state condivise, altrimenti non sarebbero passate. Ma questo accade tante volte. Io nel lavoro di commissione, nella commissione ambiente e territorio, per esempio nell'esaminare il decreto Terra dei Fuochi Ilva, ho lavorato con i colleghi di 5 Stelle e con altri colleghi dell'opposizione, e tante proposte sono state prese perché erano convincenti. Ma questo è il lavoro parlamentare se viene fatto in nome di un bene comune, come pure altre volte. Penso alle questioni degli ecobonus, del credito d'imposta all'edilizia, proposte da me sono state votate. Sì, ma dice Realacci non c'è credito, cioè non dice Riccardo Nuti, non è che si possono rivendicare successi che sono stati ottenuti con i voti degli altri, non so come dire, è una proposta che è stata appoggiata anche dagli altri, perché altrimenti non si capisce come funziona il Parlamento, a meno che uno non pensi che valgono solo i propri voti, ma questo significa che Grillo punta quanto al 60% e qualcuno ritiene realistico. Beh, un po' è così, cioè lui lo dice spesso, dice andiamo avanti così, tanto questi partiti stanno morendo. Che ciò non è possibile, gli italiani non hanno l'anello al naso, si capisce che è un'azione propagandistica, agitatoria, che non è fatta nel bene dell'Italia. Se mi chiede il nome sul ministro dell'economia, dico la mia personalissima. Si è parlato di Del Rio, no? A me non dispiacerebbe, perché io penso che abbiamo bisogno di un ministro dell'economia che guardi l'Italia negli occhi. Insomma, lei della linea Renzi, come complessivamente? Lei della linea Renzi, sì, non della linea Napolitano, che invece vorrebbe più un tecnico. Io penso che ci vuole un ministro dell'economia e altri ministri che conoscono il paese, che lo guardano negli occhi e che hanno un'idea ambiziosa del futuro. I ministri che invece reagiscono e agiscono soltanto su parametri internazionali, su politiche economiche astratte, mi convincono poco. Poco, va bene, posizione molto chiara. Sentiamo due ascoltatori. Cristian da Milano ci chiama. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno. Siete in tanti a chiamare, ovviamente. Mi definiscono molto spesso quelli del PD, sono uno squadrista grillino. Sì. Vorrei dire una cosa. Io l'altro giorno ho votato sul blog sì per l'incontro tra Renzi e Grillo. L'ha visto, ecco, poi è pentito pure? Condivido nel metodo e soprattutto nel merito come è andato l'incontro. Non è stato molto un dialogo, però non voglio dire. Non c'era bisogno, secondo me, di dialogare con una persona che il giorno prima dice io non andrò mai al governo senza il voto degli italiani, e il giorno dopo va al governo senza il voto degli italiani. Poi volevo dire un'altra cosa veloce. Il Grillo non ha detto non sono democratico, punto. Ha detto non sono democratico con voi, cosa ben diversa. Democratico con voi, Quindi niente, volevo dire. Con voi, cioè come dire, ma capisce che però di fronte a un avversario politico usa toni come dire, cioè che non si erano sentiti poco in passato. Dice io con te non voglio parlare, non mi interessa quello che senti, non mi interessa il tuo programma. No? Per lei è giusto così, insomma, come doveva fare così. Va bene, molto chiaro. Grazie Cristian. Andrei a Napoli da Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Sono in linea? Sì, certo, dica. Senta, secondo me ieri Grillo ha fatto il peggiore show della sua carriera, tra comico e pseudopolitico, perché di politica lui credo ne capisca poco quanto molti degli italiani. Non accettare il dialogo significa che non ha niente da dire, perché una persona che veramente vuol fare gli interessi dei suoi elettori avrebbe dovuto avere il coraggio di confrontarsi, visto che era in diretta, e far capire ai suoi elettori quali potevano essere i punti seri sui quali poter lavorare per la riforma dell'Italia. Sì. Così facendo, credo, è un auspicio anche perché non voto il Movimento 5 Stelle, che farà tra massimo 10 anni la stessa fine che hanno fatto tanti partiti che all'inizio hanno fatto fuoco e fiamme. Ma dice non pagherà dal punto di vista elettorale. No, in questo modo non paga, perché strillare senza consentire di poter dialogare non significa. No, ma è chiaro, è chiaro, Maurizio. Riccardo Nuti, lei non crede anche questo? Cioè che oggi molti giornali raccontano che nella base, diciamo, non tutti hanno apprezzato questo modo e che possa ritorcersi contro. Che pensa lei, onorevole Nuti? Ma io già penso di aver detto la mia opinione. Sono assolutamente convinto che questo è il Movimento 5 Stelle e le persone è bene che comprendano che noi siamo all'opposto di questa gente. la gente che poco fa, come il collega Relacci, prima dice che il Movimento 5 Stelle non ha proposte, non si capisce cosa vuole fare, e quando gli vengono elencate una serie di proposte dice ma sono state votate anche dalla maggioranza, ma allora il Movimento 5 Stelle ce l'ha le proposte. Cioè, come vede, è una continua contraddizione da parte di queste persone. Ma no, ma che ci siano, sì, però la sensazione è che quelle proposte, cioè la sensazione è un po' quell'intransigenza, per cui le proposte ci sono, ma se passano bene, se non passano vuol dire che gli altri sono dei farabutti. Questa è un po' stretto la sintesi, che è il contrario un ma po'. Gli altri, ma attenzione, ma noi facciamo anche proposte che hanno detto loro in campagna elettorale, cioè, quindi quando noi diciamo l'abolizione dei cacciabombardieri 35 per risparmiare un bel po' di miliardi era una proposta detta dal PD, da Bersani, e poi hanno votato contro. Quindi lei dice in questo, anche quella sugli affetti d'oro è la stessa cosa. Cioè, in questo c'è la scarsa coerenza. Va bene, io mi devo fermare qui, altrimenti sforo. Vi ringrazio, Riccardo Nuti, deputato alla Camera, presidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, e Ermete Relacci, che è del PD e anche presidente della Commissione Ambiente. Grazie per essere stati con noi. Ringrazio anche Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Alessandro Barcotulli in redazione, che con l'alpino Peter Biscapè vi danno appuntamento a domani, sempre qui puntuali 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.